Sempre in tema di rilevanza, non vi sarà sfuggito, spero, lo strillo di prima pagina del Corriere di mercoledì 17, che si chiede con una certa drammaticità che cosa hanno in comune la formazione dell'Ajax di Cruyff e i nomi dei re birmani. Per rispondersi subito dopo, senza neanche dare al lettore il tempo di pensarci su, che non hanno in comune niente. Sbagliando di grosso, si capisce, perché tra quei due insiemi di stringhe alfanumeriche, come si dice oggi, di cose in comune ce ne sono, se ne possono trovare parecchie. A partire dal fatto che sono ovviamente due elenchi di nomi propri e di nomi propri che a certi gruppi di persone vanno considerati tutt'altro che indifferenti. Non è il caso di obiettare, infatti, che non c'è nulla in comune tra i tifosi dell'Ajax e gli specialisti di storia birmana. Intanto non è detto. E poi i nomi dei giocatori della nota squadra olandese potrebbero in determinate circostanze diventare materia di analisi storica non meno di quelli dei bellicosi sovrani di Myanmar. Il fatto è, come si scopre andando come da istruzioni a pagina 36, che il Corriere trae due esempi da un libro che a quanto pare ha conosciuto in libreria strepitose fortune, la Schott's Original Miscellany, che pubblicato in Gran Bretagna nel 2002 ha venduto oltre 1 milione di copie più sequel e tradotto oggi in italiano come l'originale miscellanea di Schott, dovrebbe nelle speranze degli editori giungere quanto più vicino possibile a quel successo. E capirete, mettendo a 15 euro l'uno un volumetto di 162 pagine, si possono fare dei bei quadrini. E molti infatti ne ha fatto l'autore, tale Ben Schott appunto, che ha avuto l'idea di raccogliere e registrare un elenco di informazioni considerate, dice il recensore, del tutto irrilevanti. E come a dire, tali da non interessare assolutamente a nessuno. Fra i molti esempi forniti dall'articolo figurano la composizione del menù di prima classe servito sul Titanic, la sera del naufragio, il nome del cavallo di Re Artù, la lunghezza minima della corda utilizzabile nei campionati di tiro alla fune e il numero dei giorni necessari alla gestazione di uno yak, che deve essere, credo ma non ci giurerei, un qualche tipo di illuminante asiatico. E così via. Ecco. Premesso che non deve essere irrilevante il fatto che il giornale che ci dà in prima pagina la preziosa notizia faccia capo allo stesso gruppo editoriale che pubblica la traduzione, non resta molto altro da fare che compiacersi per l'ingegno e la fortuna dell'abile Schott. Inutile e vano è sperare che il mercato librario in questa stagione s'orienti verso prodotti più seri, siano o non siano destinati ad avverarsi i voti editoriali, è poco ma sicuro che quest'anno sotto Natale si venderanno più copie dell'originale miscellanea che esemplari della critica della ragion pura. E questo in fondo non è il problema più grave, visto che da un certo punto di vista Kant completamente innocuo non è. Il guaio è che non è neanche la miscellanea in questione, che non è, stando almeno all'articolo di cui è soltanto una bizzarria editoriale, una delle tante puttanate che arrivano ogni giorno in libreria di fronte alla quale il saggio si limita a scuotere il capo in segno di rassegnata deprecazione. Se davvero contiene quel materiale ed esibisce quei criteri di scelta, si tratta, credete a me, di un libro pericolosissimo. Ed è pericolosissimo innanzitutto perché si fonda su presupposti manifestamente falsi. È evidente che quelle relative alla composizione del menù di prima classe della notte dell'iceberg, al nome del cavallo di Re Artù, alla lunghezza della fune da tirare negli appositi campionati e alla durata in giorni della gestazione di uno yak, per non dire della formazione dell'Ajax e della lista dei re birmani, non sono affatto informazioni rilevanti per tutti. Sono dati preziosi a seconda dei casi per lo storico, il tifoso, il veterinario, l'atleta, lo studioso di folklore anglo-celtico. Sapere che la notte del 14 aprile 1912 i passeggeri di prima classe di quel celebre sfigatissimo transatlantico si accingevano prima di inabissarsi a consumare ostriche e consommé Olga, filet mignon Lili, sauté di pollo con lyonnaise, agnello alla salsa di menta, anatra all'osto con salsa di mela, pâté di foie gras, éclair di cioccolato e vaniglia e gelato francese, è fondamentale per chiunque si occupi di economia politica del primo Novecento, degli usi e costumi delle classi dirigenti della Belle Époque, più in genere dell'ingordigia come caratteristica principale del ceto abbiente. E se è vero che tutte queste categorie di studiosi, di persone, rappresentano gruppi minoritari, i cui interessi non coincidono con quelli delle larghe masse popolari, è anche vero che i limiti tra le competenze specializzate e la cosiddetta cultura generale sono meno netti e definibili di quanto si pensa di solito e non sono comunque mai tali da rappresentare, non devono essere mai tali, da rappresentare un ostacolo all'esplicarsi della circolazione delle idee. Un grande fenomeno a cui non si sottraggono in un modo o nell'altro nemmeno i fautori o detrattori dell'Ajax o di altre formazioni sportive. Perché l'interesse, stringi stringi, è un valore. E i valori, lo ripetiamo da anni, non stanno mai nelle cose, ma ce li mettiamo sempre inesorabilmente noi. Sostenere il contrario, ipotizzare un universo di fatti, eventi, procedure che siano rilevanti o irrilevanti in sé, che siano dotate di un valore che si può soltanto recepire passivamente, per cui certe cose devono stare a cuore a chiunque e di certe altre non può interessarsi nessuno, significa prevedere un mondo di soggetti passivi, di ebeti medi, di boccaloni incapaci di pensare con la propria testa e pronti a subire a proprio rischio e pericolo qualsiasi fascinazione, compreso quella del mercato librario. Il signor Schott naturalmente non ha di questi propositi, poveretto. Lui scherza soltanto e i suoi editori dopo tutto fanno il loro mestiere. Ma se qualcuno dovesse decidere di farsi annoverare sua sponte in quella categoria al fine di arricchire l'uno o gli altri, naturalmente è libero di farlo, ma non si venga a lamentare dopo.